24 mattino. Eccoci qui alle 8:20 minuti, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie Alessandro, buongiorno. Eccoci, oggi parliamo di telefonia mobile, un tema che i nostri ascoltatori seguono sempre con molta attenzione. Sì, è vero, anche perché cominciano a trovare queste carte, queste ricariche telefoniche al supermercato e molti ci hanno chiesto di fare un po' di chiarezza su questa novità. Il primo operatore mobile virtuale italiano è stato Coop Voce, grazie ad un accordo fra la Coop Italia e Telecom Italia. Poi è arrivata la carta delle Poste Italiane, poi è arrivata l'iniziativa di Carrefour, l'ultima in ordine di tempo è quella di Erg Mobile, la catena dei distributori appunto di Erg. Si attiveranno presto anche le banche, ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa sono gli operatori virtuali di telefonia? Alessandro Longo, nostro collega, giornalista esperto di telecomunicazioni, buongiorno. Allora, è una novità interessante per quello che riguarda il mercato italiano delle telecomunicazioni? Beh sì, è una novità del 2007, quando è nato il primo operatore mobile virtuale, ricordiamo anche con un certo ritardo rispetto all'Europa, che il primo europeo è stato del 99. Ecco, è una novità interessante che arriva in ritardo, però resta interessante per i consumatori perché crea una certa varietà nei servizi di telefonia mobile, varietà sia in termini di tariffe sia in termini di servizi. Ecco, allora, le novità di cui parlavi sono sicuramente quelle che ci interessano di più dal punto di vista tariffario. Sono arrivati anche dei vantaggi reali per il consumatore finale, Alessandro, ma soprattutto come è stato visto questo avvento dall'operatore tradizionale sul quale comunque l'operatore virtuale si appoggia? Le novità tariffarie ci sono, anche se non sono straordinarie, nel senso che mediamente un operatore virtuale ha delle tariffe un po' più basse rispetto all'operatore normale e quindi per esempio c'è il classico minimo, la tariffa minima generica semplice che è 17 centesimi al minuto senza scatto la risposta, tariffazione al secondo, però non si può dire che gli operatori virtuali siano i più economici in assoluto. Questa tariffa che ho citato è presente anche in altri operatori normali. Ecco. Un vantaggio per il consumatore, sempre dal punto di vista del risparmio, ci può essere, però se va a fare la spesa nel supermercato di cui poi è utente come anche operatore virtuale, perché può convertire parte dei punti della spesa in traffico telefonico. Ci hai già anticipato infatti lo spirito allora che è mosso Carrefour Italia. Antonio Cortina, amministratore delegato di Carrefour Italia Mobile. Dottor Cortina, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, a lei. Chi glielo fa fare ad una importante insegna della grande distribuzione moderna di fare anche il distributore di servizi telefonici? Ma io direi questo, che in un mercato molto molto competitivo e saturo come quello italiano, sicuramente il servizio di telefonia che noi come Carrefour Uno Mobile andiamo a proporre nasce proprio per cercare di in qualche modo ampliare, completare la disponibilità e l'offerta di servizi per il cliente che regolarmente, quotidianamente sceglie un'insegna del gruppo Carrefour per i propri acquisti. Più precisamente il cliente del gruppo, semplicemente facendo la spesa, direi che si avvale ed ottiene benefici e vantaggi unici e esclusivi, e dall'altra parte la telefonia può a tutti gli effetti diventare uno strumento per fidelizzare ancora di più il cliente ed aumentare la frequenza del punto vendita. Ecco, come funzionano le vostre offerte? Tanto per farlo capire, anche perché poi credo che, come dire, banalmente anche le altre grandi insegne faranno delle iniziative, non dico uguali evidentemente, ma insomma si muoveranno sullo stesso terreno della fidelizzazione. Assolutamente sì, diciamo che la nostra strategia, soprattutto negli ultimi mesi, tutte le nostre promozioni che stiamo lanciando, abbiamo lanciato in questo periodo, sono state pensate, sono orientate totalmente a una fortissima sinergia con il mondo della carta fedeltà, il mondo loyalty, creando proprio promozioni ad hoc sulla base del comportamento d'acquisto dei nostri clienti ed aumentare sempre di più l'integrazione tra l'operatore telefonico e le attività del nostro gruppo di riferimento. E diciamo, proprio semplificando al massimo, il nostro paradigma di comunicazione è la la nostra proposizione commerciale è proprio quella che il cliente, facendo la spesa all'interno del punto vendita, si ripaga il proprio conto telefonico, facendo leva su una sorta di, direi, meccanismo virtuoso, per cui il cliente che fa la spesa con la propria carta fedeltà accumula punti e può ricaricare gratuitamente la propria SIM Carrefour Uno Mobile, e in maniera del tutto speculare, direi, acquistando ricariche può ottenere punti extra che possono essere utilizzati per la propria spesa quotidiana. L'ultima domanda al collega Alessandro Longo. Alessandro Longo, stamattina mi incespico, sarà la pioggia, non lo so. Il nostro paese, 60 milioni di abitanti, vede 90 milioni di SIM attive, se non sbaglio. Il risultato ottenuto dagli operatori virtuali in questi due anni è stato piuttosto significativo. Hanno già superato 1,5 milioni di abbonati, se ho le cifre aggiornate. Secondo te ci sono ancora ampi margini di crescita o è difficile che possiamo raggiungere il risultato della Gran Bretagna, che è stato il primo paese ad avviare questo processo, e qui gli operatori virtuali hanno ben l'8% del mercato di riferimento? E come ho detto prima, purtroppo in Italia sono arrivati quando il mercato e i giochi erano già fatti, come si dice spesso in questo settore, cioè il mercato era già molto competitivo e anche ormai saturo. In Gran Bretagna hanno avuto parecchi anni in più per giocare, o ben 8 anni in più, e quindi la quota di mercato degli operatori virtuali tutto lascia credere che resterà marginale nell'ambito della telefonia mobile. Questo non vuol dire che non potrà avere un qualche impatto, se non sulle tariffe, magari anche sui servizi, o diciamo con idee alternative, come appunto anche il fatto di fare la spesa e ricaricarsi, oppure servizi in più. Ci sono già operatori mobili virtuali che stanno puntando su servizi innovativi, ne voglio citare uno se possibile, Noverk, che ha dei servizi per esempio per trovare la farmacia più vicina. Benissimo. Allora, visto che ci ha dato questo input Alessandro, devo lasciare la linea ad Alessandro Milan, ma allora magari ci ritorneremo proprio per esplorare anche queste ulteriori novità che stanno arrivando. Grazie ad Alessandro Longo e ad Antonio Cortina. Oggi a Salva Danaglio mi occupo del massimo scoperto. Alessandro, buona giornata. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano, a parte le elezioni, ovviamente, di cui parleremo approfonditamente tra poco. La giudice della Corte Suprema americana Ginsburg ha sospeso la vendita della Chrysler alla Fiat, accogliendo la richiesta di 3 fondi pensione dell'Indiana, nonostante l'appello in senso contrario della Casa Bianca. Lo stop alla vendita fino a nuovo ordine potrebbe però essere revocato già in giornata. Una maxi operazione della polizia per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina in corso da stamattina in 16 città italiane e in 7 paesi europei. Decine gli arresti operati dalla squadra mobile di Venezia nei confronti di un'organizzazione criminale che negli ultimi 3 anni ha fatto entrare in Europa migliaia di clandestini curdi. Una bambina di 4 anni è morta nella notte tra domenica e lunedì, cadendo da un balcone al quarto piano di un albergo di Palermo. I genitori erano lì per una festa, hanno perso di vista la figlia che è precipitata. I genitori stessi sono indagati per omessa vigilanza. E infine, ora è ufficiale, il brasiliano Kaká è del Real Madrid. Nella notte l'annuncio del passaggio dal Milan agli spagnoli. Volevo restare, ma sui club italiani pesa la crisi, ha detto il brasiliano, che ha firmato un contratto di 6 anni, lo stipendio 9 milioni di euro l'anno. Le 8:34 minuti, dunque, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ritrovo al mio fianco il nostro direttore Gianfranco Fabi. Direttore, ben ritrovato. Eccoci qua, parliamo eccoci ancora qua. Di elezioni anche oggi, sono ancora elezioni comunque da approfondire e merita sicuramente guardare un po' nel futuro di questo paese che ci riguarda un po' tutti. E certo, oggi ci dedichiamo in particolare sulle amministrative, leggendo un po' quello che è il resoconto di dati che sono ancora parziali, ma insomma si riesce a capire qualcosa. La maggioranza sostanzialmente ha conquistato al primo turno 26 province, in particolare al nord, nel Veneto, in Lombardia. Sicuramente il Popolo della Libertà ha fatto il pieno, come si suol dire, ha conquistato anche la provincia di Napoli, mentre il PD, che è arretrato in campagna, ha tenuto nelle tradizionali roccaforti del centro Italia, Firenze e Bologna. Alle comunali si andrà al ballottaggio, anche se i candidati del centro-sinistra sono in vantaggio. Insomma, si può fare qualche considerazione. Intanto saluto il senatore Giovanni Collino, che è responsabile degli enti locali del Popolo della Libertà. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro è eletto, credo neoeletto, nell'Europarlamento, no? Sì, grazie. Dovrà fare una decisione però, insomma, ma nelle prossime settimane, Abbiamo 60 giorni di tempo. Senta, uno dei temi di cui si parla è proprio la, la vittoria nel centro-nord. Ieri sentivo Castelli della Lega in TV a dire sostanzialmente, forse in maniera anche un po' tranchant, la sinistra è scomparsa in tutta l'area, nella grande area produttiva del centro-nord italiano. Siete soddisfatti voi, immagino, da questi risultati? Guardi, la vittoria delle amministrative è molto significativa perché rafforza il centrodestra nelle autonomie locali e nelle autonomie locali si gioca la grande partita del futuro, perché si consolida un modo di fare della buona amministrazione, si crea una nuova classe dirigente e si dà un avvio diverso al governo del paese. Quindi le autonomie locali in passato sono sempre state oggetto di guida da parte del centro-sinistra, ma una vittoria così importante rafforza un modo di fare, come dicevo poc'anzi, della buona amministrazione, ma anche i futuri equilibri per quanto concerne l'associazionismo. Penso all'ANCI, a Lupi, all'UNCEM, a tutte quelle che sono le associazioni che sono che oggi creano la politica nelle autonomie locali. Quindi è un dato politico estremamente positivo. Tra l'altro, io voglio spostarmi invece più al centro. Ho fatto cenno a uno delle zone dove sicuramente ci sarà ancora da vedere bene cosa succederà al ballottaggio, perché direttore ci ha raggiunto e lo voglio salutare, Matteo Renzi. Buongiorno Renzi. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. Matteo Renzi è Partito Democratico, candidato sindaco a Firenze, è arrivato a quanto Renzi? Quasi lì lì, insomma, però non ce l'ha fatta a vincere al primo turno, al 47-81 la danno, credo, al momento. Credo un po' più basso, sinceramente, credo 47,5, una cosa 47,5. Giovanni Galli invece al 31,96. Il divario, la forbice è ampia, però visto che lei è giovane, anche un appassionato della Fiorentina, si sa che nel calcio si usa questa espressione, gol sbagliato, gol subito, teme di non essere arrivato al ballo, di non aver vinto al primo turno e dunque di subire un contraccolpo al ballottaggio? Spero di no, più che gol sbagliato, gol subito, qui diciamo che ci tocca fare il preliminare per la Champions, almeno spero così come immagine, nel senso che a Firenze si è registrata una rottura a sinistra a differenza del solito, nel senso che a Firenze di solito il giudizio che noi abbiamo è un giudizio nel quale la sinistra ha fatto il 61% e il 61% è un risultato che è un risultato molto importante, solo che la sinistra si è divisa perché io ho detto non ho voglia di fare gli accordi con la sinistra radicale, non ho voglia di fare gli accordi con chi ha detto di no al termovalorizzatore, e con il 47,5% noi abbiamo abbiamo molta parte della sinistra che ha votato Spini, De Zorgio, il candidato dei Grillini, e non ha votato per noi. Però, lei non li vuole quei voti, neanche al ballottaggio? Scusi, i voti li voglio sempre, per carità di Dio, sui voti non si scherza. Io però preferisco evitare una paralisi domani rischiando oggi il ballottaggio. Cioè, in altri termini, io ho vinto le primarie al grido facce nuove in Palazzo Vecchio, ho chiesto di fare un cambiamento radicale della città, ho proposto una serie di 100 piccole grandi cose da fare per la città di Firenze. Se la prima cosa che faccio è mettermi a trattare con Rifondazione, con i Verdi, con i partiti diciamo che sanno dire soltanto no, è del tutto evidente che poi io non riuscirò mai a combinare un bel niente. Ecco, quindi fatto. Il suo progetto è certamente ambizioso, ma Beh, sì, però sono dei dati, diciamo, cioè, rimarco il fatto che, premesso che noi non abbiamo vinto ieri, quindi se no faccio come tutti quegli allenatori, no? O giocatori che il giorno dopo hanno tutti sempre vinto. No, io volevo vincere il primo turno e non ce l'ho fatta, per cui sono uno di quelli che non è contento del risultato, anzi, e che lavorerà adesso per recuperare i punti che mancano, quel 2,5% che manca. Però dico che a differenza di altre zone del paese, nella città di Firenze la sinistra continua a essere molto molto forte. Ci sono due sinistre che si sono confrontate, una sinistra è la sinistra che noi abbiamo proposto, capace di avere delle idee propositive, di metterla, diciamo, cioè io non posso fare l'accordo con quelli che ho cacciato di giunta perché mi dicevano no al termovalorizzatore. Ogni riferimento ai Verdi è puramente voluto. Direttore, no appunto, dottor Renzi, è da vedere se lei guarda questo punto più a sinistra o più, non dico a destra, ma perlomeno al centro. Ma io spero che quelli della sinistra Shell, come pure quelli del centro, quelli dell'UDC, quelli diciamo incerti, e a questo punto votino tra me e Galli, tra due proposte di città, tra due idee, tra due storie personali e anche tra due proposte e due leadership possibili per la città di Firenze. Quindi una scelta autonoma e una ricerca di voto completamente autonomo. Non teme l'astensionismo dal ballottaggio? Beh, il rischio c'è senz'altro. Io, come dire, probabilmente devo più che, insomma, il dato dell'astensionismo deve farci riflettere anche a Firenze, anche se è stato un dato decisamente più alto rispetto all'Italia. Però che devo dire, cioè, avendo proposto un cambiamento radicale della città, non è che posso adesso dire vabbè, però siccome ho preso il 47,5 mi metto a fare l'accordo con Baldospini. Lei se lo immagina uno che ha vinto le primarie con facce nuove in Palazzo Vecchio, che la prima cosa che fa il giorno dopo è la trattativa stile Prima Repubblica con Baldospini? Renzi, le chiedo anche, ha visto qualcuno dice il trionfo in termini di voti di Deborah Serracchiani, i volti nuovi del Partito Democratico, lei che è considerato uno di questi volti nuovi, che ne pensa? Quindi... Beh, sono molto felice per Deborah, credo che abbia fatto un grandissimo risultato. E ora io non conosco di preciso i dati, li ho visti nella sua pagina Facebook stanotte, ma insomma mi pare che abbia fatto un bellissimo risultato. Sono davvero felice per lei. Ora non so come sono andati nel resto d'Italia i giovani o comunque le nuove leve del PD. Spero che siano andati un po' più come Deborah e un po' meno come me. Ecco, ma dottor Renzi, guardando un po' al di là degli Appennini, cioè verso il nord, che è un po' il grande problema del Partito Democratico, l'aver presentato Cofferati e Luigi Berlinguer come capolista forse è stato uno sbaglio da parte del PD. Sì, ma insomma, voglio dire, non mi pare che il problema, francamente il PD, diciamoci la verità, io sono stato anche uno di quelli che spesso ha contestato il PD, però se noi guardiamo al nord, possono anche aver messo capolista Berlinguer. La Serracchiani, per utilizzare uno stretto tecnicismo giuridico, che ha fatto un mazzo tanto, nel senso che ha avuto un consenso molto superiore. E allora non mi preoccuperei tanto dei capolista. Il PD ha fatto un risultato che non è un gran risultato, ma è un risultato che rispetto alle previsioni di 10 giorni prima delle elezioni tutti i leader del PD avrebbero firmato col sangue. Cioè, cosa è accaduto? È accaduto, secondo me, che non soltanto o non tanto si è fermata l'avanzata del PDL di Berlusconi. Il Presidente del Consiglio aveva dato dei dati molto molto diversi sulle sue previsioni e tutto il centro-sinistra lo prende in giro, ma tutte le volte che Berlusconi dà un sondaggio a noi, come dire, un brivido scatta lungo la schiena perché li azzecca sempre. Stavolta non ne ha preso minimamente e io dico meno male. C'è un dato che credo ci debba far riflettere sulla Lega. La Lega non è più quella forza che noi possiamo dipingere come nazionalpopolista di destra estrema delle valli padane. La Lega fa l'11% in Emilia Romagna, certo. Inizia per la prima volta ad arrivare anche in Toscana. Questo è il dato che dovrebbe farci riflettere. No, ma si è detto, infatti, va anche molto al centro la Lega. Io ringrazio sia Matteo Renzi del Partito Democratico, candidato sindaco a Firenze, se la vedrà al ballottaggio con Giovanni Galli, così come senatore Giovanni Collino. Allora, le 8:45 minuti, stiamo parlando del voto alle amministrative, siamo stati con Matteo Renzi, candidato sindaco a Firenze, qui a fianco c'è ovviamente il nostro direttore Gianfranco Fabi. Ecco, voglio ringraziare perché si è liberato per noi pochi minuti, non gli rubiamo di più, il candidato alla provincia di Milano per il Popolo della Libertà, Guido Podestà. Podestà, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la provincia di Milano era una delle gare, sicuramente una delle gare più interessanti. Lei si è fermato, ma si è fermato lì, stava per vincere, insomma, al primo turno. È sorpreso di questo risultato, che però la costringe, diciamo, ai supplementari? Guardi, chi si è fermato, pur essendo uscente, si è fermato a 38% e penati. Io sono arrivato a 48,8, in effetti è un peccato non aver avuto la possibilità di superare il 50%, ma aver dato 10 punti di distacco a chi per 5 anni ha avuto la possibilità di fare e non ha fatto, evidentemente è un motivo di soddisfazione, perché 10 punti evidentemente sono tanti. È una bocciatura sonora di 5 anni di non governo, di 5 anni di immobilismo. Dopodiché tra 15 giorni avremo la possibilità, con l'impegno sia del Popolo della Libertà che della Lega, di poter finalmente dare una svolta al governo della nostra provincia. Direttore, sì, è prevedibile, dottor Podestà, un accordo con l'UDC, un accordo sostanziale, un accordo programmatico con l'UDC per recuperare questi pochi voti che mancano per superare il 50%? Ma guardi, noi avevamo proposto all'UDC un accordo globale che prevedeva tra l'altro anche la candidatura di un loro uomo nella provincia di Lodi, così come loro avevano richiesto. Poi l'UDC ha scelto altre strade, noi con l'UDC condividiamo il governo della regione, condividiamo il governo della città di Milano e tanti altri governi. Siamo insieme nel Partito Popolare Europeo da sempre, credo che abbiamo gli stessi valori, è un po' la loro scelta che ci ha sorpreso obiettivamente, quindi starà loro decidere se rientrano in una coalizione alla quale appartengono, come dicono, il governo regionale in tanti altri governi, oppure se preferiscono ritrovarsi a fianco di chi vota Rifondazione Comunista, addirittura i gruppi dell'estrema sinistra, cioè scegliano loro a un certo momento. Noi abbiamo una coerenza di posizione e naturalmente siamo più che disponibili a ragionare sui temi programmatici che dovrebbero vederci su posizioni comuni. Ecco, c'è un altro problema poi per le elezioni di tra 15 giorni, tra 13 giorni anzi, che è quello che queste elezioni sono accoppiate al referendum. Ora sappiamo che la Lega fa battaglia perché il referendum fallisca, è probabile che fallisca dato che in queste elezioni si è superato di poco il 60% ed è difficile che con i ballottaggi si riesca a superare il quorum. Ma lei pensa che ci possa essere un effetto astensionismo che possa penalizzarla? Ma guardi, ieri sera eravamo ad Arcore dal presidente Berlusconi, presidente Bossi, Calderoni, Maroni. Podestà, questa se l'è tirata in casa, adesso ci deve dire come sta Berlusconi, lo descrivono incupito, lo descrivono triste, arrabbiato, ci dica. No, semplicemente ha purtroppo questo dolore sul collo, sulla spalla. No, che evidentemente ha una situazione infiammata da molti mesi, per cui obiettivamente è in condizioni fisiche non ottimali. Ma l'umore, perché non ha parlato ieri? Mi è sembrato francamente sereno, contento del fatto che il centrodestra ha avuto una serie di vittorie veramente strepitose in tutte le province. Quindi mi sembra che ci sia una debacle completa del Partito Democratico, che ha perso 7 punti rispetto alle politiche di un anno fa. C'è una situazione nella quale obiettivamente il centrodestra sta andando molto bene. Quindi voglio dire, è una situazione di soddisfazione quella che è emersa da queste elezioni. Poi la cosa che veramente fa quasi sorridere è che il fatto che ad esempio sulla provincia di Milano non si sia risolto tutto al primo turno sembra che sia chissà quale grande vittoria della sinistra, ma insisto, un uscente che in 5 anni avrebbe dovuto poter dire ai cittadini ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, non ha potuto dire ho fatto perché nulla ha fatto e prende meno del 40% dei voti. Se questa è una vittoria, ditemi voi, ma su tutte le altre province, in Lombardia ad esempio, su tutte le altre province non c'è stata partita. No, infatti dicevamo che sicuramente nel centro-nord, direttore, nel centro, nel nord, nel nord-est, qualcuno ci scrive anche per esempio il fatto che la Lega stia avanzando nel centro è, secondo un ascoltatore, per esempio merito delle politiche agricole del ministro Zaia che sono state capite in queste zone. Chissà, però c'è certo da capire tanto anche da queste elezioni. Le elezioni poi forniscono degli spunti interessanti sempre da capire. Libertà e Lega. È un'alleanza strategica che consente di governare sia il governo nazionale che tanti altri governi. La regione Lombardia è l'esempio più evidente del buon accordo che c'è. Mi sembra francamente che si vada a cercare chissà quali motivi di conflitto dove francamente non ci sono. Le cose che ci uniscono sono infinitamente di più delle cose che ci dividono. Torno a dire, per rispondere alla sua domanda sull'astensionismo, non vedo francamente nessun tipo di disimpegno da parte della Lega per quanto riguarda il referendum, proprio non c'è nessun tipo di problema, per certo. Come lei ha detto, il discorso del referendum con una priorità non raggiungerà assolutamente il quorum. Va bene, grazie. Grazie a Guido Podestà del Popolo della Libertà, il candidato presidente alla provincia di Milano, che è arrivato vicino appunto a raggiungere la vittoria al primo turno, si è fermata al 48,8%, mentre Filippo Penati, che era presidente uscente, al 38,8%, dunque una forbice di 10%. Sappiamo, abbiamo detto anche nelle altre provinciali importanti, a Napoli c'è stata la vittoria al primo turno invece di Luigi Cesaro del centrodestra, 58,3% contro Luigi Nicolais, ex ministro del governo Prodi, 35,2%, una forbice molto molto ampia. Direttore, ci sarebbe anche da dire che tutti si combattono per queste province, ma le province sarebbero quelle province di cui si dice spesso, e anche una tua battaglia, sì, insomma, giornalistica da tempo, a dire: ma a che servono queste province? Ma indubbiamente le province, io resto convinto che sarebbero da abolire, almeno come entità politica, non certo come entità amministrativa, tecnica, di vicinanza appunto ai bisogni dei cittadini e di soluzione di problemi molto concreti come la manutenzione delle strade o la ristrutturazione delle scuole. Però le province come entità andrebbero profondamente riviste, c'erano state delle promesse in questo senso e restano comunque dei grandi centri di spesa. Ecco, dobbiamo osservare che nonostante le promesse che erano state fatte, in queste votazioni si è votato per la prima volta per province come la provincia di Monza, e quindi la Barletta Andria Trani, quindi nuove province. La politica a volte annuncia delle cose e poi va in direzione opposta, e forse anche per questo che i cittadini un po' dimostrano disaffezione, chiamiamola così, e il dato sulla partecipazione e il fatto che poi tutto sommato tutti i due grandi partiti abbiano entrambi perso voti dimostra che perso voti in senso numerico, non certo in senso percentuale, dimostra che in fondo c'è la necessità che la politica si riavvicini ai cittadini cercando maggiore concretezza, cercando magari dei voti nuovi, magari cercando di mantenere le promesse, fare meno promesse ma almeno quelle mantenerle. Grazie allora direttore, che è stato con noi anche quest'oggi per parlare di elezioni. Tra poco anche Giuliano Ferrara continua, insomma, per esaminare il voto delle europee e delle amministrative. In chiusura voglio ringraziare Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e noi con 24 Mattino ci troviamo domani.